comunque se te ne vai, ma non ti importa niente che me, senza me te ne vai, e già ti sto cercando mentre ti sto perdendo. Così te ne vai, e già deciso come a partire. Dove andrai? Che farai? E guardami dall'occhio, regalami un abbraccio. Vai dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai cercando quello che hai. Quello che hai.